Scusa Mary, scusa Mary, scusa Mary! Sabato 31 maggio prende il via al Cecco Rivolta la 20ª edizione di Calci dal Basso, il torneo di calcio a 5 senza arbitro in cui a farla da padrone è l'autogestione. 13 le squadre in campo a contendersi il prestigioso trofeo. Per la finale del 28 giugno, grazie alla collaborazione con Radio Wombat, diretta streaming, con interviste e riflessioni da tutta Italia. Con realtà che fanno dello sport il punto di partenza della loro azione sociale e politica dal basso. Per dettagli e info su orari e risultati delle partite consultate il NoBlox di Calci dal Basso. Non mancheranno fin dal primo minuto le tradizionali birrette con panini vegani e con mortazza. Scusa Mary, scusa Mary, scusa Mary! Ed eccoci, Radio Wombat, 13.59, in onde medie, onde mediocri veramente, e mi raccomando, se non lo sapete già, dallo streaming il contatto è il solito, radiowombat.net, e siamo alla finale di Calci dal Basso e al compleanno del Cecco Rivolta, una diretta speciale quella di oggi, che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio finché non cala il sole. Siamo abbastanza devastati dal caldo e quindi abbiate pietà di noi, ma oggi in realtà è nella Wombat regia montata per l'occasione in maniera un po' rocambolesca e devo dire neanche troppo accrocchiata, devo dire anzi molto professional. E qui nella Wombat regia ci sono moltissime persone tra me, anzi la mia voce la sentirete poco, devo dire. Oltre a Mario ci sono altre due voci che sentirete. Ale, ciao. Ciao, buonasera. Che ci racconterai, diciamo, in prima persona la storia sia del Cecco Rivolta ti tocca, sia anche di Calci dal Basso, perché oggi in realtà ci soffermeremo forse un po' di più sulla questione di Calci dal Basso, del torneo, dello sport popolare, un po' tutto quanto. E abbiamo anche in regia Wallace, anche lui ci terrà compagnia, ci racconterà diverse cose, ci aiuterà a fare un po' da filo conduttore per questa giornata. E passo subito a Mario, anche se hai fatto i volumi, ti sembra che sia giusto? Sì, è giusto, chissà. Ci fanno anche evidenti cenni dal campo, ottimi ok per noi, quindi sembra proprio di sì. Se così non fosse però scriveteci diretta a wombat.vado.li. Wombat. Ciao a tutti, sono Wallace, sono allenatore della Stella Rossa. Wallace, hai il microfono spento, abbi pazienza, questa è colpa mia che non l'ho acceso prima. Eccolo, è tuo il microfono. Eccoci, pronti, 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Wallace, sono l'allenatore della Stella Rossa Rugby Milano e quindi particolarmente specializzato nella palla ovale, ma altrettanto amante della palla sferica e legato da una lunghissima amicizia di affinità e attivismo militanza con il Cecco Rivolta, per il quale siamo qua a festeggiare il quarto di secolo importantissimo. E che dire, qua con Radio Wombat è stata acchittata una postazione veramente incredibile, che è passata dall'essere sembianza di una sauna svedese a un super impianto di ventilazione che grazie alla componente tecnica ci ha veramente svoltato con un effetto vela notevole. E infatti il Wombat non è abituato a tutto questo lusso, noi vi ringraziamo ma ci sentiamo un pochino spauriti in questa tana così veramente ben fornita, grazie davvero. Ci teniamo ai nostri ospiti. Ma accidenti, accidenti, che accoglienza, lo raccomandiamo a tutti quanti ci ascoltano, lo raccomandiamo. Guardate, stanno succedendo delle cose grazie all'autogestione e l'attivazione delle singole soggettività notevoli. Ecco, passiamo quindi, parlando di annate importanti, dai 25 anni del Cecco Rivolta ai ben 20 anni, per cui 20ª edizione, corretto? Correttissimo, sì. Di calci dal basso. E quindi passiamo la parola a Vulp, che è protagonista assoluto della faccenda. No, protagonista non lo so, però sicuramente presente fin dai primi attimi sia del Cerco Rivolta che del torneo di calci dal basso, che sì, quest'anno è la 20ª edizione e che festeggiamo in maniera, diciamo, particolare, perché siamo la squadra del Cerco Rivolta di Nuovo Dazzi. Quest'anno è tornata in finale dopo 16